Ciao Onda Rossa, Shanghai. Allora, la situazione è un po' complicata da descrivere perché in realtà ovviamente i numeri stanno scendendo e quindi ci sono... la città si sta rianimando lentamente, alcuni posti riaprono, alcune persone vanno al lavoro, però con dei... Ci sono persone in metropolitana, ci sono macchine per strada. Forse la cosa che ha ricominciato in maniera più visibile è il traffico per strada. La metro è ancora abbastanza vuota, a parte forse le ore principali di punta, ma per il resto non c'è tanta gente comunque in giro. I ristoranti alcuni sono aperti, però ci sono tutta una serie di restrizioni sia di quante persone possono esserci nello stesso momento, qual è la distanza che devono tenere i vari tavoli, anche se si va al ristorante in gruppi di persone, il modo soprattutto nei bar, il modo in cui sedersi, insomma, ogni posto ha tutta una serie di direzioni che servono anche a dimostrare al governo che il posto ha le misure di sicurezza adeguate per poter tenere aperto. Poi in realtà la situazione per alcune altre cose invece è molto critica. Anche per quello che sta succedendo internazionalmente. Mi spiace moltissimo di leggere le notizie dell'Italia, che sono, i numeri sono drammatici e posso solamente avere la mia solidarietà, però per esempio ora tutti i complessi residenziali sono ancora più chiusi di prima, quindi tutti hanno dei sistemi, tutti, quasi tutti, non tutti, però almeno qua in città quasi tutti hanno un sistema con una carta che prendi all'ingresso quando esci la mattina ed è la carta che ti consente di entrare, di tornare dentro dopo, quindi se non hai quella carta non puoi entrare, quindi è impossibile invitare amici per fare una cena, farsi aiutare a prendersi un tè, farsi aiutare con dei lavori. Sì, è una forma diversa di quarantena, nel senso che possiamo uscire. Però è una dimensione una forma di isolamento in casa che sinceramente per me è una situazione nuova, soprattutto vivendo da sola, ho bisogno di una mano a fare delle robe e quindi questa cosa, insomma, oggi mi sta andando un po' fuori di bolla. E alcuni uffici sono riaperti, alcuni no, la gran parte stanno continuando a lavorare da casa, da remoto o con dei turni, quindi ci sono poche persone presenti nello stesso ufficio allo stesso tempo, e questo è quello che per esempio sta succedendo con l'amministrazione in università. L'università è chiusa, non c'è nessun all'orizzonte, nessuna data possibile o interesse possibile a pensare di riaprirla. Tutti i corsi sono attivi online e ci sono conferenze che avvengono, anche c'è un sacco di attività diciamo sociale, civica, bar che fanno eventi online, meetings, catering. Un sacco di cose che stanno avvenendo online, anche con appunto ci sono una serie di servizi streaming abbastanza popolari qui e quindi quello sta funzionando tanto. Lezioni di yoga, attività sportive, palestre sono chiuse, parchi sono chiusi, c'è una palestra a Shanghai aperta, tipo, ma anche loro con grandissimi con sistemi di disinfestazione e comunque di quante persone possono entrare alla volta molto molto limitate. Posti di massaggi quasi tutti chiusi, anche loro con regolamento molto stretto di chi può, di quante persone possono stare dentro. Ho visto che stanno disinfettando in maniera sistematica i pullman e le metropolitane, quindi sono 2 o 3 giorni che vedo in giro persone in metropolitana che sprayano qualcosa che immagino non sia acqua. La situazione è super allerta, ogni posto pubblico dove si entra c'è il disinfettante, c'è la misura della temperatura e adesso c'è anche questo sistema di controllo del codice del QR code verde o rosso, quindi c'è sono tutta una serie di servizi digitali collegati a sia alle società dei telefoni, quindi Telecom, insomma, l'equivalente di Telecom o Vodafone o chi per esso, sia a tutti i vari servizi di pagamento online, i vari PayPal e tutte queste versioni dei siti cinesi, in cui praticamente c'è un'aggregazione a livello centralizzato dei dati degli utenti e tramite questo la profilazione se le persone sono passate da zone rosse o zone ad alto rischio di contaminazione o zone dove hanno incrociato persone che sono poi state rilevate infette o se ad un livello più elevato se si sono stanno verificando comportamenti ad alto rischio. Quindi, tramite questa forma di intelligenza artificiale e uso dei dati sul telefono, c'è un'applicazione che ti restituisce un QR code che può essere rosso, verde o giallo. Se è verde vuol dire che puoi entrare, se è giallo e rosso vuol dire che non puoi entrare, se è rosso vuol dire che chiamano, da quello che ho capito, io chiamo il servizio sanitario perché devi essere mandato in osservazione praticamente immediata, mentre giallo potrebbe significare che hai. Che sei passato da zone potenzialmente a rischio e eri in posti con altre persone infettate. Quindi c'è anche una dimensione tecnologica, insomma, abbastanza. Ovviamente questo dal punto di vista della privacy fa venire delle domande, quantomeno. Mi sembra di capire che i cinesi si trovano nella situazione ora di dover contenere un pericolo che non è generato da loro. E quindi come tale fa più paura, perché più ingestibile. Io sto sentendo anche su canali, gruppi WeChat, gruppi Facebook, comunque di una serie internazionale che vogliono tornare, persone preoccupate del loro business, tutte queste cose qua, con anche dei discorsi che sono francamente poco rispettosi della situazione internazionale. Quindi persone che a cuor leggero si permettono di dire: vabbè, io sto bene, quindi ho tutto il diritto di tornare, che sinceramente penso che non sia vero. Penso che in questo momento tutti devono stare fermi dove sono. Il più possibile dobbiamo metterci l'anima in pace sul fatto che la società va reinventata in maniera diversa, perché quella pubblica, così come pubblica promiscua, così come ci piaceva, in questo momento non è possibile, perché l'onda è lunga. Quindi adesso noi stiamo pagando, cioè stiamo ricevendo un secondo livello di prescrizioni che deriva anche da quello che succede internazionalmente, e sono passate, come dire, 2, 3, forse anche 4 settimane dai picchi qui, almeno locali qua a Shanghai. Cioè non basta preoccuparti del tuo giardino, bisogna tenere un po' l'occhio bisogna veramente creare un senso di responsabilità civile collettiva, no border, cioè che va un po' fuori dai confini, perché altrimenti non ce ne liberiamo. Mi faccio un po' di pubblicità. Abbiamo lanciato anche noi una campagna qualche giorno fa a livello internazionale, soprattutto con l'idea di creare dei ponti tra la Cina e l'Italia, e la Cina e un po' il resto del mondo, perché ci sono magari suggerimenti che possono anche arrivare da qua, dalle persone normali che si sono fatte diverse settimane oramai di confino. Ed è un hashtag su TikTok, Instagram e Twitter, che è This is me quarantine. E quindi l'idea è quella di avere comunicazione e sharing di cose interessanti, idee e belle notizie che possono ispirare la gente a attivarsi. Quindi restare a casa in quarantena non significa essere morti, ma significa attivarsi in maniera diversa. Secondo me questa è una sfida super interessante, perché vuol dire intanto riempire il tempo con delle cose che di solito non abbiamo la possibilità di fare, e questo è un dono enorme. Ma anche creare e fare pensare cose diverse, e soprattutto provare a ripensare la vita non semplicemente focalizzandosi su quello che ci viene tolto, che è ovvio, ma su invece quello che si sta in qualche modo guadagnando. È un esercizio che, come dire, a molte persone, anche parlando qua, è sempre più piacevole e interessante ritrovarsi in conversazioni che sono diverse, cioè usare la possibilità per evolvere un pochino, invece che mettersi in stallo, in pausa, e poi pretendere di aspettare e ricominciare come era prima, perché il come era prima non ci sarà più. Se c'è una cosa che posso permettermi di dire un po' da quello che si vede in Cina, che ci sono un sacco di cose che non saranno più come prima. Ci saranno dei posti che non esistono più perché economicamente non ce la fanno, ci sono dei posti che cambiano i modi e i metodi perché hanno scoperto che si possono fare le cose in maniera diversa, ci sono delle cose che verranno completamente trasformate online perché online funziona di più, ha dei vantaggi di praticità, e quale che sia la ragione, ma in generale, soprattutto se la situazione dura per un po' di tempo, come è stato qua, e oramai qua si parla di, insomma, siamo quasi a 2 mesi, Questo è un tempo, non è una cosa passeggera, è una cosa che radicalmente cambia lo status delle cose, quindi bisogna, secondo me, prepararsi ad accettare e anzi a vivere e a fomentare eventualmente il cambiamento nella direzione che ci interessa. È molto interessante vedere come un sacco di discorsi molto più sostenibili stanno emergendo, il fatto che uno degli effetti principali del chiudere le città è quello che l'inquinamento scende e l'aria diventa pulita, dovrebbe farci riflettere forse che siamo non solo le vittime di qualcosa che accade, ma siamo anche le vittime di qualcosa che accade a livello globale, ma siamo anche responsabili di un sacco delle cose che accadono a livello globale. Quindi questo ci mette la quarantena non è la stiamo subendo, ma è un po' anche la nostra occasione. Quindi su un po' questo principio abbiamo lanciato questa campagna. Ci piacerebbe raccogliere i vostri contributi. L'idea è quella di fare una mostra itinerante ad un certo punto e ci stiamo muovendo insomma in quella direzione, però ci servono un po' le voci di tutti, quindi se volete contribuire fantastico. E mi raccomando, dai, dai.